A Radio Onda Rossa siamo a Bologna, dove questa mattina c'è stata un'occupazione abitativa. Ne andiamo a parlare con una compagna del PLAT. Credo che ormai tutti abbiano visto l'immagine dello sgombero ieri, che ha visto come protagoniste sgomberate una famiglia con tre bambini, con una violenza inaudita. E oggi il movimento di lotta per la casa bolognese ha risposto andando ad occupare uno spazio immenso ad uso abitativo. Diamo la parola però a questa compagna che ci racconta un po' tutto. Ciao a tutte, sì, come già detto, la risposta del movimento di lotta per la casa bolognese a un'escalation di sfratti che ormai da quando è entrato in vigore il decreto sicurezza vede coinvolto appunto tutto il comitato antisfratto di Bologna è stata quella di attuare una riappropriazione di un immobile pubblico di proprietà di ASP che è nel cuore di Bologna, è un immobile davvero molto grande e chiaramente nell'intento di dare una dimensione effettiva di quello che potrebbero essere le risposte reali a ormai quella che non può essere più definita un'emergenza abitativa ma una crisi strutturale dell'abitare in questa come in altre città. L'idea è proprio quella di far comprendere con ogni mezzo necessario, a questo punto mi viene da dire, che non possiamo più permetterci di avere nelle nostre città dei vuoti inutilizzati costruiti. È il momento di effettuare delle scelte coraggiose, è il momento di fare in modo che dinamiche di violenza perpetrate su chi vive un problema sociale non vengano più poste in essere. È il momento di dire che la questione abitativa è una questione sociale e come tale va gestita, quindi non con l'uso della forza, non è una questione di ordine pubblico, ma ci sono delle possibilità che aprono a reinvestimento, alla riqualificazione, a percorsi di autorecupero che potrebbero, diciamo, rendere meno gravose e meno disperate le vite di chi ogni giorno cerca di ritrovare un affitto in città dove gli affitti sono sempre più alti, e questa è una situazione condivisa con tutte le città che a causa della mercificazione e degli affitti brevi e della turistificazione stanno sempre più espellendo lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse verso le periferie e verso l'esterno delle città. Vi ringrazio, grazie, anche grazie della partecipazione in diretta da Bologna.